Good morning, Radio Kabul! Salut! Nieruchimi Respublik Svobodny Splatila na veki Velika Jaros Milan, Bolshevico! Solstani vole naroda Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Sovietski Sajus Slavia Tietjeva. Comunista bolscevico. Milan Setung. Setung. Setung. Radio Kabul. Družbi naroda. Vladioždia. Stalin, Lenin, Milan. Vai con l'armata rossa. Piegati al sistema che non siete altro. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Devo dire che mi mancava molto e ho fatto rimettere dal nostro alpino in regia l'inno sovietico vecchia maniera. L'ho fatto anche un po' in onore di Mario Calabresi che torna con noi. Cosa Mario, c'entro buongiorno. Io? No, c'entro. Cosa c'entro centri, io con l'inno sovietico? Centri, perché adesso dobbiamo svelare che tu ieri mi hai telefonato e neanche mi dice, io dico pronto e lui mi dice bolscevico, è così, certo. ammettilo bolscevico, mi ha salutato così, cioè, bolscevico. È la cosa, tu hai la sigla, secondo me è il programma con la sigla più bella d'Italia, è meravigliosa. Uno nessuno, cioè, è bellissima, e poi quella voce che ti dice Milan bolscevico, cioè, è meraviglioso. Tu te la devi fare Milan tatuare Setung sul braccio. Sì. Esatto. No, te la devi fare tatuare sul braccio. Adesso. È evidente che quello è un tuo amico prezzolato che ti serviva. No. Sono i grandi ascoltatori, il vero patrimonio di Radio 24. Milan, bolscevico! Eccolo qui. Vedi. Magari che stava andando, che ne so, a fare una consegna intanto. Bolscevico! Sì. Se volete mandare anche per Calabresi, 349-2866. Sì, non bolscevico, che vi querelo. No, vabbè, però Trampiano, non so. Va bene. Allora, signori, siamo qui insieme a Elisabetta Fusconi, che è incredibile, è tornata dalla Svizzera, l'hanno fatta passare, questa è la vera notizia, è lì in regia, esatto, è lì in studio, esatto. incredibile. Saluto anche Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e caro Mario, senti, sempre adesso basta alpino, perché l'inno sovietico poi ci scambiano veramente per emissari di Putin nostalgici. Nostalgici, eccetera. Allora, vogliamo iniziare anche oggi col nostro Raffaele Kohler? Ho detto ormai nostro, ormai sei nostro, Raffaele. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Scusatemi, sono un attimo casato. Bello, bello, te la faremo fare in studio. Così, stupendo. Grande Raffaele, come stai? Tutto bene direi, sì. Tutto bene, piacere sentirvi veramente. Siamo qua. Allora Raffaele, come vuoi accompagnarci nella giornata di oggi? Allora, oggi avrei un brano che ho scritto io personalmente, e l'avevo scritto quando appunto la mia fidanzata aveva un bel pancione molto importante, diciamo. Allora è una ninna nanna che ho scritto appunto per mio figlio, è una ninna nanna swing, così per... Adesso la uso per addormentarlo, bello, a ritmo di swing, diciamo. E il brano si chiama Anteo. Addormentarsi col suono della tromba, insomma, è un po' potente. Però all'inizio è un po' potente, poi dopo diventa un mantra e si addormenta e funziona. Bello, dai, se ci consenti lo dedichiamo un po' a tutti i nostri figli, tutti i figli d'Italia che sono in una situazione un po' complicata anche loro. Vai, Raffaele. Thank you. e alle, capito Mario? Potremmo con tutto il rispetto, però mi sembra sì. più da aperitivo che da ninna nanna. Bisogna vedere se si addormenta effettivamente. Esatto. Vabbè, vabbè, Raffaele, cioè, grazie. Insomma, poi tra l'altro questo è tuo, un inedito, per la prima volta un inedito. Poi abbiamo sentito anche un accenno di inno sovietico. Io sono felice così, insomma. Ci sentiamo domani, eh. E viva alle 18, alle 18 Milano, da qualche parte ascolterà la tromba di Raffaele Kohler. Va bene, vai Alpino, vai che si parte. Enthusiasm, enthusiasm about the future. Allora, caro Mario, ti voglio far sentire proprio subito Conte. Ieri hai fatto questa, ha detto sarò critico un minuto, poi torno filo governativo in nome dell'Unità d'Italia. Allora, cosa ti è piaciuto del discorso di Conte? Ti fa sentire la frase forse più importante, no? Quella del ci giudicherà la storia, sentiamo. Siamo all'altezza del compito che il destino ci ha riservato? La storia domani ci giudicherà. Verrà il tempo dei bilanci, delle valutazioni su quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Tutti avranno la possibilità di sindacare, frigido pagatocque animo, il lavoro svolto e trarne le conseguenze. Mario, che dobbiamo fare? È come un appello a dire adesso... Ponete un po' le armi della critica. Ma io siccome l'ho ripetuto da te più di una volta, che in questo momento è importante l'unità, è importante stare compatti, il paese non ha bisogno di divisioni ideologiche, però ci sono anche dei temi che non è che per forza dovrà giudicare la storia, ma anche la cronaca e l'urgenza possono porre. E siccome comunque sia emergono continuamente due temi nel confronto con gli altri paesi: uno, il non avere messo in sicurezza da subito tutti i medici mandati troppi allo sbaraglio, senza attrezzature, morti, senza mascherini, non lo so, vi faccio un esempio, ci sono tanti ospedali, pensi, parlavo ieri con una dottoressa dell'ospedale di Alessandria, l'ospedale di Alessandria mi diceva praticamente il numero dei medici che si sta ammalando, che non hanno avuto protezioni adeguate, o ovunque, quelli che non stanno in prima linea, che però hanno a che fare con persone contagiate spesso, perché non è che i contagiati si presentano tutti con tutti i sintomi espressi. E quindi la protezione dei medici, uno, e la seconda, noi stiamo tutti fermi anche perché non facciamo il tampone, ormai è diventata una cosa che si fa solo per timbrare, per dire che quelli che sono gravissimi ci sono migliaia di italiani che quello. Ce l'hanno, ma sì, ecco, ci sono migliaia di italiani che ce l'hanno, lo dicono i medici di base, se si facessero di più. Io non riesco a capire, perché capisco che sia un problema, ma visto che stiamo investendo una quantità di soldi in un sacco di cose perché stiamo fermando tutto, forse dovremmo anche investire una parte di questi soldi a rafforzare i tamponi e a individuare positivi e a isolare loro. Sì, certo, dicono non è tanto i tamponi, ma poi i laboratori, insomma, mancano, mancano questi investimenti, però bisognerebbe investire qui. Eh sì. A proposito di cifre, è troppo facile dire ci giudicherà la storia. No, visto che siamo in mezzo alla storia, proviamo anche adesso a vedere se c'è qualcosa che si può mettere a posto. Perché se Borrelli oggi ha la febbre, se Bertolaso arriva a Milano e dopo due giorni finisce in ospedale, è forse qualcosa che non funziona nella prevenzione, c'è, perché altrimenti è un po', diventa un po' tutto. No? Sì, è questa idea del modello italiano. Io sono un po' perplesso. Mi sembra un po' a volte uno slogan patriottico. Però, insomma, diteci anche voi, cari ascoltatori. Volevo invece sottoporti una cifra, o meglio, due cifre che ho trovato sui giornali. Beh, mi ha fatto veramente impressione. 2 trilioni, cioè 2.000 miliardi. Questo è quello che gli Stati Uniti pensano di investire per ripartire. 2.000 miliardi. L'Italia si parla di 25 miliardi. Forse altri 10. Sì, stiamo attenti, però non sono, sono anche cifre di tipo diverso, cioè noi calcoliamo soldi, i nostri sono soldi che lo Stato prende e spende. In America, come nel piano tedesco, in gran parte sono anche soldi che vengono garanzie che vengono date per fare credito, per esempio, alle aziende, e quindi sono delle garanzie, sì, cioè sono soldi virtuali, non sono soldi che escono dal bilancio e vanno in tasca alle persone. Chiaro. Anche se negli Stati Uniti stanno succedendo cose che erano totalmente fuori dalla... Come da noi oggi chiudi tutto in nome della salute, metti in discussione il modello economico, negli Stati Uniti stanno succedendo cose che non avremmo mai immaginato, cioè che arrivano dei sussidi, una sorta di cassa integrazione a chi è stato a casa per malattia. Calcolo che c'è una grossa fetta di lavoratori che se resta a casa per malattia non ha nessun tipo di copertura. Non ha nessun tipo di copertura. E invece, certo, per la prima volta negli Stati Uniti si decide che ci sia questo. E poi invece tutti quelli che non hanno modo, perché hanno attività personali, che stanno, che ne so, in posti anche sperduti d'America e che devono chiudere, a questi arriva un assegno a casa. Quindi, da questo punto di vista, una cosa veramente socialista, Milan, ti dovrebbe piacere. Sì. o poco trampiana, quindi tu dovresti criticarla, se vuoi. Esatto. Però, insomma, Mario Calabresi c'è con noi un ospite che ci può dare tante delucidazioni dal punto di vista del lavoro che fa, della storia che come dire, con lui è cresciuta, e anche, se mi permette, dell'età che ha, perché classe 1928, dunque 91 anni, può dirci qualcosa di quello che ha visto in tutti questi decenni. Professor Silvio Garattini, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, intanto si dice, professor Garattini, c'è Mario Calabresi anche con noi. Buongiorno, professor Garattini, che questa è l'emergenza più grave dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lei se la ricorda, la Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione. È così? Certamente sì, è così, ma soprattutto non bisogna paragonarla alla guerra, perché allora era molto più complicato, non c'era da mangiare, c'era la carta lunaria, si potevano avere solo un certo numero di grammi di pane al giorno. C'erano allarmi frequenti, bisognava correre nei rifugi, c'erano i bombardamenti, e quindi l'idea che di paragonarlo con la guerra è tutta un'altra cosa, insomma, per quel che mi ricordo io l'ho passato dai 12 ai 16 anni, però questa qui è certamente una tragedia, nel senso che c'è un'alta mortalità, ci sono queste forme di malattia che intasano gli ospedali e che obbligano a fare cose che non sono mai successe in realtà. Ma meno male che lei lo dice, infatti il paragone con la guerra è perché tutto si è fermato, sì, però. Io qualche giorno fa ho una delle mie figlie che ha 13 anni e che sentiva appunto questo discorso, la guerra, disse: beh, ma i nonni non avevano da mangiare e dovevano andare in guerra a combattere, sì, a noi ci chiedono di stare sul divano col frigo pieno. Esatto, poi parlando con gli amici, facendosi vedere attraverso Skype, insomma, con tutte le cose che abbiamo oggi, che allora invece c'era il terrore perché non si sapeva affatto quello che succedeva all'esterno, insomma, No, il paragone è improprio. Senta, professor Garattini, lei crede davvero che siano sottostimati i casi di coronavirus, per cui si parla, secondo alcune stime, di 450.000, di 1 milione di italiani? Io conosco moltissime persone, anche giovani, anche parenti, che a gennaio hanno fatto una strana forma di polmonite. Cosa devo pensare io? Che hanno avuto il coronavirus. È molto probabile, certamente adesso dare i numeri, insomma, è frutto molto di fantasia, però è quello che certamente, di cui si può essere sicuri, che i numeri non sono quelli che vengono dati, i numeri sono molto più alti, perché molti di quelli che hanno avuto una sintomatologia, che accade nell'80% dei casi e forse più, che non hanno avuto in pratica che altro che sintomi minori, e questi non sono stati classificati evidentemente, certo, perché non è stato fatto il tampone, non sappiamo se c'è il virus e quindi insomma non abbiamo la possibilità. Ma quindi vuol dire che potremmo essere vicini alla cosiddetta immunità di gregge? Chiedo da ignorante. Ma questo dipende molto dal fatto che non sappiamo che tipo di anticorpi hanno prodotto questi che hanno avuto la malattia minore. E non sappiamo neanche quanto siano protettivi questi anticorpi, salvo che per alcuni dati che sono stati realizzati in Cina, ma adesso questo problema si sta studiando a Pavia con l'aiuto dei cinesi, e alcuni dati fatti in, sui topi, in cui sembra che la somministrazione di anticorpi prodotti dall'uomo protegga dalla infezione. Però diciamo, siamo ancora all'inizio di queste conoscenze e bisogna, bisogna prendere professore, sempre tutto con... Sì, prego. Volevo chiederle, lei sulla politica italiana dei tamponi, cioè sostanzialmente di farli soltanto a chi è malato con tutti i sintomi ormai in ospedale, è d'accordo o pensa che dovremmo fare diversamente? No, io penso che i tamponi vanno fatti non su tutta la popolazione, perché sarebbe impossibile, 60 milioni, certo. Vanno fatti certamente su tutti quelli che hanno grandi contatti, cioè... per esempio su tutti quelli del supermarket, che sono quelli che poi vedono la gente in continuità, lì andrebbero fatti, sì, andrebbero, sì, fatti su tutto il personale sanitario che opera a qualsiasi livello, perché vede gente. Intanto guardi, scusi professore se la interrompo, ma sul tema tampone è uscita adesso un'agenzia che il capo della Protezione Civile è negativo al tampone, meno male. Virus, quindi aveva una febbre evidentemente di stagione, sì, di stress. Appunto, ecco, ma per quello diciamo vuol dire che non possiamo prendere tutti quelli che hanno la febbre come se avessero il virus, eh sì. E non possiamo neanche pensare che tutti quelli che hanno la febbre non abbiano il virus, quindi diciamo bisogna farlo il tampone, ma bisognerebbe farlo anche sulle persone a rischio, perché questo diciamo eviterebbe e metterebbe più sull'attenti quelli che hanno avuto contatti, certo, con persone, sì, a rischio. Quindi è una via di mezzo quella che si dovrebbe fare, però forse adesso può darsi che sia già anche tardi, si tratta di valutazioni che vanno fatte con grande attenzione. Il farmaco arriverà, lei è un farmacologo, tutti guardano questi farmaci miracolosi, non miracolosi... Ma ci sono molte chiacchiere intorno a questo, e ci sono anche molte cose che diciamo si fanno un po' anche per disperazione. Gli studi che sono stati messi ufficialmente in corso da parte dell'AIFA sono degli studi che hanno una base scientifica, nel senso che permetteranno in tempi relativamente brevi di sapere se sono attivi oppure no. Avvengono in concorso con molti altri studi fatti in altri paesi, soprattutto in Cina, quindi avremo un quadro preciso. Quello che sappiamo è che l'impiego del ritonavir, lopinavir, che sono questi due farmaci contro l'AIDS, questi insieme non danno nessun beneficio. Sono dei farmaci che hanno, diciamo, non hanno un effetto, ma hanno effetti collaterali, per cui circa il 14% in questo studio che è stato fatto in Cina ha dovuto interrompere il trattamento per via di effetti collaterali gravi, appunto. Per quel che riguarda gli altri farmaci, naturalmente ci sono dei pareri molto diversi. Questa idea di studiare l'Avigan, per esempio, mi lascia molto perplesso, perché è un farmaco che era attivo contro l'influenza, è stato tolto dal commercio in Giappone, non è più in Giappone, diciamo, quindi non è più. È un po' perplesso su perché non ci sono dati fondamentalmente, e questo farmaco insomma, è stato tolto dal commercio in Giappone nelle farmacie. Certo che no, mi faccia fare una considerazione. Mario Calabresi, fossero tutti gli anziani, come si vuole dire, della tempra di Garattini. Ieri quando l'abbiamo chiamato ha detto sono qui a lavorare, ripeto, classe 1928. Esatto. Bisogna continuare a lavorare, guai. Giusto, assolutamente. Professore, noi la ringraziamo, insomma, per essere stato con noi, Silvio Garattini. Allora, Mario, io ti volevo far ascoltare il Daniele, che ci ha scritto una mail da Caravaggio. Allora, noi l'abbiamo chiamato, credo, insomma, è nella situazione di molti genitori che hanno figli autistici. Daniele, buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Lei tra l'altro ci scrive da Caravaggio, quindi sì, oltre ad avere questo problema in famiglia, è anche in una zona molto complicata, diciamo. Cosa ci voleva raccontare, Daniele? Niente, io volevo portare la mia esperienza, nel senso che io ho una bambina di quasi 5 anni che soffre di un disturbo autistico certificato, nel senso che siamo andati in commissione all'ASL e ci hanno dato l'invalidità civile. Dal 24 febbraio, quando le scuole hanno chiuso, Francesca va all'asilo, il centro di neuropsichiatria che la in cura è chiuso. Ovviamente gli assistenti educatori, gli insegnanti di sostegno non ci seguono più, perché giustamente hanno chiuso tutto. E siamo stati, tra virgolette, un po' lasciati soli, nel senso che comunque sia tutta l'educazione, la routine quotidiana è stata affidata a noi genitori. Mia moglie lavora in un supermercato, quindi in questo momento non è a casa. Io fortunatamente sono a casa e mi occupo prevalentemente di Francesca. In questi giorni, come ho detto ieri anche in redazione, io continuo a portarla fuori nonostante ci siano i divieti, perché è l'unica cosa che comunque sia mi facilita. Perché comunque sia Francesca non parla, ha difficoltà comunque sia a comunicare. Abbiamo iniziato da dopo Natale un percorso di comunicazione aumentativa, molti probabilmente non sanno cos'è, ma sono dei simboli che vengono associati alle parole in modo da facilitargli la comunicazione. Però ripeto, abbiamo appena iniziato ed è complicatissimo. Quindi no, ma io capisco, cioè, che appello fa quello di poter dire, intanto di dire siamo abbandonati, e noi abbiamo raccontato anche allora, due giorni fa, io non mi sento abbandonato, nel senso che comunque sia bene o male una volta a settimana con la neuropsichiatria ci sentiamo, però sono sempre comunicazioni tramite email o tramite WhatsApp, quindi sono comunicazioni certo. Beh, chiaro, questo purtroppo... Ieri sera la Regione Lombardia ha emanato un comunicato che consente alle persone disabili di poter comunque sia, per brevi momenti, uscire di casa. Ecco, quello che voglio dire è, non vorrei che dopo la caccia ai runner si cominciasse anche ad attuare la caccia alle persone disabili. Cioè, no, ma è assolutamente... Tutte le volte che esco di casa ho il terrore che qualcuno dal balcone possa dirci qualcosa o possa... Mario, ti rendi conto? Cioè siamo in questa situazione, no? Se posso portare l'ultimo esempio, dopo non rubo più tempo. Francesca ha fatto 5 giorni a non mangiare e capisce che per un bambino che non parla l'angoscia dei genitori. Dopo vari tentativi abbiamo capito che gli mancavano i nonni. I nonni abitano a circa 10 km da noi. Io l'altro giorno ho preso un po' della disperazione, ho preso la macchina, l'ho portata dai nonni e la sera Francesca ha ricominciato a mangiare. Da un lato ero il papà più felice del mondo perché avevo fatto sì che mia figlia stesse bene. Dall'altra però mi sentivo in colpa perché da cittadino non avevo rispettato... Beh, in realtà, come ha detto lei, l'obbligo l'ha rispettato, nel senso che poi ieri la Regione Lombardia ha detto si può fare, certo, un giro breve, però ragazzi, cioè, chi è che si... Non so, Mario, ecco, ti senti tu di colpevolizzare questo papà che dice ho portato... Il problema mi sembra però che anche sia sul fatto di riuscire a trovare dei modi di dargli sostegno a distanza, attraverso, non lo so, appunto Skype. Però posso permettermi anche, cioè, Francesca comunica molto con contatto fisico, nel senso ti abbraccia, e quindi anche la videochiamata. Noi abbiamo provato anche a videochiamare la sua assistente educatrice, qui molto legata. Sì. Però dal momento in cui l'ha vista l'hai presa e è scappata in un'altra stanza. Cioè, per farti capire, perché comunque se non riesce comunque a comunicare le emozioni, cioè è difficilissimo. No, ma è chiaro, Daniele, ma come lei ci sono tantissimi italiani, abbiamo voluto accogliere questo appello. Ci racconta che come ci siano drammi nei drammi, che avere questa chiusura di tutto per alcuni è ancora più dura di quanto sia per gli altri. È terribile, sì, è terribile. Mario, allora io so che tu, avendo sentito il poeta che hai sentito nella newsletter, ha lanciato un'idea, anche perché prima di salutarti dovrò farti ascoltare una cosa, ma vai, dici. Va bene, c'è un poeta che si chiama Franco Arminio, che io trovo molto bravo, che ha lanciato questa settimana l'idea di fare un momento di silenzio, di lutto nazionale. Lui ha proposto domenica prossima, il 29 marzo a mezzogiorno, e lui dice: bisognerebbe fare 5 minuti di silenzio. Perché? Per ricordare tutti questi morti soli e senza funerale. Perché noi abbiamo gente che muore da sola, quando vediamo i numeri la sera, 600, 700, dobbiamo pensare che sono 600 persone, 700 persone che sono morte da sole e che nessuno di loro avrà un funerale, tutti i loro parenti non potranno fargli il funerale. E allora lui dice: ci sarebbe, è importante fare un momento collettivo di ricordo, in un certo senso di solidarietà a tutte queste famiglie, di ricordo di tutte queste persone che se ne sono andate. E dice: servirebbe anche a dare un senso di solidarietà, di coesione. Lui dice: 5 minuti senza telefono, computer, sì, con la televisione spenta, per onorare queste persone scomparse, in cui poi ognuno fa un po' quel che vuole, chi si può pregare, si può stare in silenzio, leggere una poesia. E quindi io devo dire, io quando ho sentito questa cosa, la volevo rilanciare e mi associo. Per quanto mi riguarda, io domenica 29 marzo a mezzogiorno farò i miei 5 minuti di silenzio, pensando a tutti questi che se ne sono andati da soli. Allora, se tu vorrai, domani sei ancora con noi, se vorrai, ma ti vogliamo salutare con il grido di battaglia di un ascoltatore. Calabresi, bolscevico! Vabbè. E così te lo mandiamo, e poi te lo mandiamo a WhatsApp. No, assolutamente no. È chiaro che hai sfidato a non darti del bolscevico. È come stuzzicare il can che dorme. Gli ascoltatori si sono svegliati. Mario, è evidente che lo tenete in casa, nascosto da qualche parte, lì in redazione. Beh, questo sarà tra l'altro un elemento di ricatto terribile. Insomma, terribile. Esatto. Come puoi immaginare. Va bene. Buona grazie. Giornata a tutti. Ciao, ciao Alessandro. Mario, grazie. Ciao. Andiamo un attimo in pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. In effetti c'è il modello italiano, è quello di Caporetto, ed è sempre quello che si ripete nella storia. Buongiorno Radio 24, ma mia nonna del 33 è ancora lucida, mi ha detto: ma Nicola, io ho fatto dal 39 al 43-44 che il latte lo bevevo una volta all'anno, quindi non siamo molto in ristrettezza adesso. Sì sì, va Nancy e rompi noi bar, ma ha detto così. Vabbè, giustamente, il paragone con la guerra è esagerato. Leonardo Manera è arrivato con noi? Sono ha mandato qui, delle foto. sempre presente nonostante il coronavirus, quindi sono ligio al mio dovere e anzi meritererei un aumento di stipendio, visto che nonostante il coronavirus. Sì. Senti, hai mandato privatamente delle foto terribili per le quali potremmo denunciarti al telefono azzurro. Cioè, Beniamino che ti fa i capelli misteriosamente. Sì, sì, sì, sì, sì. Mi ha dato Beniamino una mano che pulisce il bagno. Beniamino. Devo dire che ieri Beniamino mi ha tagliato i capelli, ma io cosa ho fatto? Sono stato veramente un genitore modello, perché ho detto: allora guarda, visto che me li hai tagliati tu, ti do la stessa cifra che avrei dato al barbiere. Non gliel'ho ancora data, per la verità, ma gliel'ho promessa. Gliel'hai promessa, va bene. Poi siamo gliela qui, darò caro probabilmente, Leonardo. Ma si sa che le promesse sono la cosa principale. Giustamente poi non conta si lamenta. Se deve lamentarsi, fallo lamentare pure in diretta, non mettergli il bavaglio come Beniamino. Come tu pensi solito. Che ti darò i soldi che ti ha promesso oppure no? No, perché c'è Tirchio. Si sa, va bene. Ecco, Beniamino, questo è il commento dei tuoi soldi. Vabbè. Allora, caro Leonardo, vogliamo salutare però adesso un sindaco, perché ci stiamo occupando meno del sud e meno delle isole. Perché? Perché effettivamente la situazione lì per il momento è meno grave, anche se c'è per esempio il governatore della Campania De Luca che dice: guardate che qui sarà il disastro tra poco, mette avanti le mani. A Cagliari invece c'è un sindaco che saluto con piacere, Paolo Truzzu. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Di Cagliari, Fratelli d'Italia. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, prima di raccontarci com'è la situazione, vorrei che ci spiegasse questi cartelloni che lei ha fatto mettere per la città con dei messaggi molto forti. Ne leggo uno: quando hanno intubato mio padre ho ripensato a quella passeggiata che dovevo evitare. Lei con messaggi del genere vuole invitare la gente a stare a casa. Qualcuno l'ha criticata dicendo che sono come dei pugni nello stomaco, no, questi cartelloni. Sono assolutamente dei pugni dello stomaco. Anche io quando ho visto la campagna ho ricevuto il cazzotto e ho riflettuto anche se farla o meno, ma ho pensato che fosse utile per garantire la salute dei miei concittadini e non ho pensato a quelli che potevano essere gli effetti negativi sul mio consenso, perché sul consenso personale, perché penso che la salute dei cittadini sia più importante. Il ragionamento che ho fatto è che quei messaggi raccontano la verità, e la verità 9 volte su 10 non ci piace ed è anche un po' disgustosa, però attraverso, diciamo, questo rapporto con la verità capiamo come ci dobbiamo comportare, capiamo che nonostante il 95% dei cagliaritani sta comportando egregiamente, un 5% può rovinare il lavoro di tutti, costringere ancora di più la gente a stare a casa, e oltre all'emergenza sanitaria che c'è e che stiamo vivendo tutti, ci sarà un disastro economico successivo. Sì. Quindi lei dice: va bene ogni tanto anche fare qualcosa di scioccante, l'importante è che la gente capisca, tutti capiscano, e vale anche, perché molti hanno detto, sa, può far sapere, può informare, ma senza, come dire, con questi messaggi terrorizzanti. Questo è vero, però io 10 giorni che faccio messaggi, appelli ai miei concittadini, ed è 10 giorni che però nella posizione privilegiata di un sindaco che riceve segnalazioni, messaggi, vedo comportamenti totalmente irresponsabili. Ma tipo? Cioè cosa fanno? La gente il fine settimana continua ad andare a pranzo dai parenti, continuano a organizzare incontri, i flussi del traffico del bus in orari non, diciamo, di spostamenti per lavoro sono alti in alcune linee, il numero di macchine che entra in città è ancora alto rispetto a quello che dovrebbe essere, ci sono tanta gente che va ai mercati e non rispetto alle distanze, gli operatori dei market sono terrorizzati, mi raccontano di persone che vanno 4-5 volte a fare la spesa così hanno una scusa per uscire, lo stesso chi lavora in farmacia. Quindi la realtà è che la maggior parte delle persone si comporta bene e li ringrazio, e non voglio criminalizzare ovviamente chi sta a casa, ma ci sono quel 5% che a Cagliari sono 8.000 cittadini più altri 8.000 che arrivano dall'Interland, che sono una bomba ad orologeria, e siccome questa cosa l'abbiamo tutti un po' sottovalutata all'inizio, io non mi voglio trovare nella condizione di dover dire un domani non ho fatto tutto quello che era necessario. Ah, no, su questo fa bene che si vengono criticati tutti che hanno sottovalutato, lei no, Leo. No, io pensavo che però spesso noi anche giustamente critichiamo le persone che escono magari anche più volte per fare la spesa, ma io mi chiedo se questa non sia in qualche modo anche un'emergenza, diciamo, mentale, psicologica, di persone così in difficoltà magari a stare a casa da sole e per le quali c'è anche un'emergenza di questo tipo. Quindi forse bisognerebbe trovare una risposta anche per quelle persone che sono in grande difficoltà psicologica ed escono magari perché in casa si sentono morire, magari anziani. Insomma, c'è anche questo altro tipo di problema, secondo me. Sì, questo è possibile, però uno può uscire, fa una passeggiata intorno a casa e ritorna a casa. Non c'è bisogno di andare in luoghi dove ci sono altre persone. Che è quello il vero rischio. Sì, spiegami, c'è il giro dell'isolato. Sì, lo so, però il problema della solitudine per tante persone che non sanno come gestire, è per quello che forse ci vorrebbe un supporto di altro tipo psicologico. Ma noi abbiamo messo anche un supporto anche di tipo psicologico, c'è un numero che ha attivato il comune, portiamo i pasti a domicilio, stiamo facendo la spesa a domicilio con i volontari, quindi abbiamo messo su tutta una serie di iniziative per stare vicino a chi è più debole, però l'elemento secondo me discriminante è che ognuno di noi sta facendo un sacrificio e una rinuncia. Allora, se non li facciamo in questa occasione, quando c'è in gioco la nostra pelle, quando c'è in gioco una comunità, la salute di un'intera comunità, ma quando mai vogliamo fare sacrifici e rinunce? E questo sì, purtroppo, sì. Io consento ancora tanta gente che dice, ma cosa vuoi che sia una sesco una volta, se vado da mia mamma a pranzo? Io 45 giorni che non vedo i miei genitori, siccome ero malato prima che arrivasse questa ondata, e 45 giorni che non mi avvicino dei miei genitori perché sono persone anziane e ho paura per loro. E non voglio assolutamente questo... che succeda niente, quindi facciamo tutti sì. dei sacrifici. È anche un richiamo al senso di responsabilità sì. individuale di ognuno di noi. Lei sindaco, per concludere, farebbe come il sindaco di Messina? Certo, lo stretto di Messina è molto, molto corto, come dire, la separazione in chilometri tra Calabria e Sicilia è molto più corta rispetto alla separazione del continente con la Sardegna, ma si metterebbe a bloccare le persone che cercano di arrivare sull'isola? Guardi, le dico questo, noi i casi di contagio che abbiamo sono tutti di persone, sarde o non sarde, che sono rientrate, diciamo, dopo un viaggio in Italia, mettiamola così, sul continente, come diciamo noi. Io avrei chiuso i porti e gli aeroporti della Sardegna un mese fa. E questa cosa la regione l'ha chiesta al governo, il governo non l'ha concessa, forse noi, forse, perché poi non lo sappiamo, saremmo stati un'isola felice sotto questo punto di vista. Io oggi ho 3.000 persone da controllare, perché negli ultimi 15 giorni, da quando sono state imposte le ultime restrizioni, sono rientrate dall'Italia. Quindi ho i vigili, un gruppo dei vigili, per esempio, che è dedicato solo a questo. Ma rispettano la quarantena, secondo lei? Sì, rispettano la quarantena. Beh, noi li controlliamo ogni giorno, un gruppo di vigili va a verificare se sono in casa. Sono più di 3.000 persone. E quei vigili poi li devo distrarre ovviamente dall'attività di controllo del resto dei cittadini. Sì, e poi devono farlo tutto con precauzioni, ovviamente rischiano. Esatto, con precauzioni che non ci sono, quindi anche abbiamo anche questa difficoltà, perché mascherine, guanti e quant'altro ormai è introvabile. E quando abbiamo fatto un ordine spendendo anche 100.000 euro del comune per comprare i DPI, col rischio che ci venga sequestrato. Perché poi questo sta succedendo, e siamo in grande difficoltà, questo i cittadini lo devono comprendere. Ma guarda, sicuramente sì. E tutti i metodi sono buoni. Noi per il momento Paolo Truzzo la ringraziamo, sindaco di Cagliari, voglio ricordare i Fratelli d'Italia, grazie, ovviamente buon lavoro. Grazie, a proposito di farmacia, io mi sono dimenticato ieri di fare questo annuncio, perché mi scuso con l'ascoltatore che ci ha mandato una mail, ho detto mi dica per favore, perché io lo dirò in onda. Mi racconta un cittadino di Sesto San Giovanni che sua moglie è andata a Cinisello Balsamo, comune a fianco, a prendere una fornitura di mascherine qualche giorno fa, quando ci si poteva spostare ancora, e le ha comprate a 50 euro. Una busta non so di quante mascherine, ma non certo di migliaia di mascherine, 50 euro. E mi ha scritto questo ascoltatore, una rapina da una farmacia, non al mercato nero, da una farmacia 50 euro. Allora, io non dico il nome della farmacia perché non abbiamo fatto una verifica, insomma, ma mi fido ciecamente di questo ascoltatore. Dice, è arrivato a casa, mi ha detto quanto ha pagato, 50 euro. Ma ci rendiamo conto, cioè, se è così è una roba incredibile. Ci vorrebbe, caro Leonardo, prima del traffico, il consiglio che ci ha dato ieri l'ascoltatore da Reggio Calabria. Te lo ricordi, Giuseppe, da Reggio Calabria? Che, nervo di ecco, bue. In loco, vai Alpino, in loco. Non ce l'abbiamo, vabbè, insomma, lo mettiamo, dai, vai. Questa è una mia medicina per i trasgressori. Ci vorrebbe una bella passata di Miccio De Boe. Cioè? Che sarebbe il nervo, il loco. A seconda della gravità della situazione, si prenderebbe quel Miccio De Boe bagnato nell'aceto, almeno 10 passate di Miccio De Boe, e vede che non serve nessuna sanzione pecuniaria. Senza sanzione, senza multe, perché oggi soldi non ce ne sono. Però c'è la cattiveria delle persone che vanno a fare quello che non possono. Soldi e multe no, ma 10 passate di Miccio De Boe e ti passa tutto, caro Leonardo. Chissà se almeno erano mascherine nuove e non usate, rimesse imbustate di nuovo. Sai, no, magari può succedere anche quello. No, dai, adesso questo spero. No, non in farmacia, dico, magari al mercato nero, chi lo sa. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno. Svelato il mistero delle code rallentamenti alla barriera di Milano Sud di ieri. Controlli di polizia stradale. Meno male. Manera bolscevico. Ecco, messaggio al 349-238-6666. Aspetta, poi adesso rispondi anche tu al bolscevico. E ci scrive un ascoltatore, Armando da Pescara: è saltata la regola zero dell'emergenza, cioè tutelare i soccorritori. Allora è uscita un'agenzia poco fa che è salito a 36 il numero di medici morti, 3 ieri a Bergamo, 36, e non so quanti infettati, contagiati, si parla di oltre 620 contagiati, cioè 6.205, cioè capite, se chi deve aiutarci si ammala e muore, la regola zero, ha ragione questo ascoltatore. Il problema questo è che questi benedetti presidi non si trovano, evidentemente anche lo Stato non riesce a procurarne abbastanza, non si trovano i reagenti per i tamponi, non si trovano i reagenti per i tamponi, non si trovano le mascherine. Le prime persone da proteggere sono i medici, perché chi è che ti salva la vita? Gli infermieri, certo. Gli assistenti ospedalieri, no? Poi dopo si ammalano e sta male loro, chi ci cura? Sì, siamo d'accordo tutti. Vabbè. Per me più banalmente il problema, che non ho ancora capito quando uso la mascherina, è come usare la mascherina e contemporaneamente non far appannare gli occhiali. Ecco, questo è il grande problema. Ma dai, perché... su. No, banalmente ho detto, quando vado a fare la spesa al supermercato non ho ancora capito come tenere la mascherina senza effetto nebbia sugli occhiali. Effetto nebbia, non lo so, vai su un tutor su YouTube, ci sarà qualche tutorial che ti insegnerà. Andrò in giro con la nebbia anche a fine maggio. Fai un appello alla finestra, magari in quartiere qualcuno, non so, affacciati e urla: aiutatemi a mettere la mascherina. Come? No, che poi dopo vengono i carabinieri a portarmi via per problemi mentali. Preferirei avevi evitare paura anche su questo. Avevi paura. Sì. Dai, su un appello a bassa voce. A bassa voce. Che devo dire? Adesso ci penso e magari poi a fine ci trasmissione penso. La faccio. Intanto vai. Oggi non è proprio un pezzo, ma siccome mi sono incuriosito, sono andato a dare un'occhiata alle precedenti epidemie e ho trovato molte analogie con una in particolare, perché sono passati 100 anni, poco più di 100 anni, da quando nella primavera del 1918 l'influenza cosiddetta spagnola si accanì contro gli adulti, uccidendo nel mondo più di 50 milioni di persone in 18 mesi, chiamata spagnola perché i primi a parlarne furono i giornali spagnoli e non quelli del resto del mondo, perché in molti paesi allora a causa della guerra c'era la censura. Allora, quell'influenza un medico la definì il tipo di polmonite più violento che avesse mai visto. I medici legali dell'esercito americano aprirono il torace di alcuni che per l'influenza erano morti e dissero che i polmoni sembravano una gelatina di ribes rosso, perché un polmone sano in acqua galleggia, ma i polmoni attaccati dall'influenza spagnola affondavano in acqua come il piombo. E come funzionava il virus influenzale del 1918? Scatenava una iperreazione immunitaria negli adulti sani, talmente violenta che i polmoni si riempivano di fluidi, una iperreazione immunitaria come avviene adesso anche per il coronavirus. Non avendo anticorpi per quel tipo di influenza, il sistema immunitario adulto aveva una reazione eccessiva. Dopo l'attacco del virus, poi l'infiammazione permetteva anche ai batteri di dare il colpo finale con infezioni che poi devastavano i polmoni. Quando poi la pandemia avanzò verso le città americane, si diffuse a macchia d'olio e tutti i servizi sociali andarono in crisi. Come stiamo facendo anche adesso per il coronavirus, vennero proibiti gli assembramenti. In Arizona scambiarsi una stretta di mano divenne reato. Alcuni poi, pensando che la verdura avesse delle proprietà anti-influenzali, si legavano dei cetrioli alle caviglie oppure si mettevano delle patate in tasca. Una signora dell'Oregon, sempre negli Stati Uniti, mise la figlia fino al collo dentro le cipolle. Chissà perché, anche se non aveva preso l'influenza, quella bambina continuava a piangere. Però anche nel 1918 la protezione più usata era le mascherine, la mascherina in color bianco, solo che era di cotone e non serviva poi a molto. Il fabbricante di jeans, Levi Strauss, si offrì di confezionare le mascherine per tutti gli abitanti della sua città e in molti festeggiarono nel 1918 la fine della guerra con bandierine e mascherine. Ma poi dopo il 1918, per dire, ci sono stati tanti altri ceppi influenzali pericolosi. Uno, per esempio, di cui non avevo mai sentito parlare, nel 1957, sempre una forma influenzale di ceppo influenzale, uccise solo negli Stati Uniti 70.000 persone. Insomma, ciclicamente c'è qualche virus che si presenta in forma più violenta ed è tanto più veloce quanto più veloce ci spostiamo noi nel mondo. Se andassimo ancora a piedi o a cavallo per arrivare dalla Cina a qui, probabilmente anche il virus ci metterebbe un bel po' e potremmo organizzarci. Ma da più di un secolo ormai si viaggia veloci e anche i virus si sono organizzati, stanno al passo con i tempi, viaggiano in aereo, hanno fretta come noi. I virus dell'influenza, insomma, anche se magari partono dagli animali, trasferendosi all'uomo, hanno preso le nostre abitudini, quelle dell'uomo, sono rapidi, globali, anonimi, solo che più viaggiano loro, più fanno stare a casa noi. Ma anche questa pandemia finirà, come tutte, resterà il dolore per chi non c'è più e la felicità invece per i nostri figli che, risparmiati dal virus, potranno ricominciare a rotolarsi tutti insieme nei parchi e nei prati. Bravo, e ci sono Leo, tantissime analogie, tante analogie, no? Con la spagnola che fece molti più morti, sì. Però insomma, devastava i polmoni, ci sono state più o meno le stesse misure, anche se erano tempi diversi. Assolutamente sì. Allora, io devo leggere due mail, ci scrive Pia Lisa che dice: in questi giorni non ho impegni, potrei dormire, ma mi metto la sveglia alle 9 per ascoltarvi. Grazie Pia Lisa, ovviamente mandiamo un grande abbraccio, così come una lunga mail di Maria Clara che ci racconta quello che è un po' il dramma di tanti, cioè dire, un compagno che va a lavorare perché l'azienda è rimasta aperta, eppure non hanno dato ancora delle mascherine, ne hanno fornite in un numero esiguo, per cui si sono autoprodotti le mascherine, e poi stare a 2 metri uno dall'altro in fabbrica non è assolutamente facile. Allora ci dicono di evitare assembramenti, di stare uno distante dall'altro, e poi però rimane aperta l'impresa, e che cosa fa? Maria Clara dice: forse è il caso di chiudere, non lo so. Comunque, caro Leonardo, qui noi siamo. Sai che siamo, io ho provato virtualmente anche a farmi. Sì. Ho provato a farmi la mascherina anche con la carta da forno. Io mm-hmm. Sì. Stavo soffocando perché la maschera, la carta da forno, la carta da forno fa respirare pochissimo. Va bene, l'ho allora io credo per fare che le zucchine grigliate, dimmi. Comunque, noi siamo a po- no. Cosa c'è? No. Ma perché? No. Cosa sta succedendo? No! Eccomi no, Leonardo. Qua! Eccomi qua! Ma no! Elisabetta Fusconi, ma perché non sei rimasta in Svizzera? Voi cosa non c'è? Potete capire la gioia di occupare il trono? Ma infatti, Biondo, sono seduta alla tua postazione. Io sto governando ora la tua poltrona. Radio 24. Il tuo avvisiamo microfono. Subito il direttore di Radio 24, il direttore personale, Barisoni. È l'inizio, è l'inizio della conquista del potere delle donne in questa redazione di Uno Nessuno 100 Milan. Cioè, ti rendi conto, Leonardo? Sai cosa farò io la prima volta che vengo lì? Ma non per il coronavirus, ma per una questione morale. Faccio come Berlusconi con Travaglio, ti ricordi quando andò sì, in trasmissione e pulì la sedia? No, ma allora, tra l'altro c'è un po' di disordine. Qua mi piace poco, c'è disordine. Non so, dovrei mettermi un po' a redigere delle regole di comportamento. Detto questo, come è stato attraversare il ma no, il ma è andato tutto lì. Allora, l'andata è andata liscia. Temo il rientro in Svizzera, ma sarà tutta un'altra vicenda. Tra l'altro ci tengo a farvi pesare che per amor proprio, cioè per amor vostro volevo dire, più che per amor proprio, io ho rinunciato ad andare alla festa di Mina. Voi sapete che Mina risiede a Lugano, ieri ovviamente festeggiava il suo compleanno e io ovviamente ero invitata perché ci sono due dive che risiedono a Lugano, Mina e la sottoscritta. Ma per amor vostro sono venuta qua, ho affrontato. C'è l'Alpino che ti fa segnali disperati, sì, scusa, c'è il giornale Alpino, radio, sto tirando in lungo. Il segnale orario vi è offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Cremona ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo. Hashtag sole per ospedale Cremona. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera per non far appannare gli occhiali, devi mettere un fazzoletto di carta piegato all'interno della mascherina dove appoggia sul naso e vedrai che risolvi il problema. Some chemical load. Ti prego, fai l'appello, anch'io ho lo stesso problema di appannamento. Manera, la devi bucare la mascherina per respirare, la devi bucare. Buongiorno, brava, ragione Manera. Ieri dopo 10 giorni sono uscita a farmi un po' di spesa, aspettavo venisse giù l'ascensore e non vedevo una mazza. Ero tutta scura, sembravo di essere in pianura padana e non mi potevo neanche toccare. Una cosa guarda pazzesca. Che è un problema serio. Ha ragione Manera. No, ma guardate che io lo so che Manera è un visionario. Lui, cioè, ha no, perché il problema il qual polso è? Adesso ti dico. Della situazione, sì. dei problemi concreti quotidiani. Si può risolvere, sì. Se hai le mascherine col pezzettino sopra di lamierina, sì, che si può stringere, la stringi bene sul naso e l'occhiale non ti si appanna se stringi bene quella parte sul naso perché non passa l'aria. Ma se la mascherina è di un altro tipo, quella chirurgica che già serve a poco, o altri tipi che non ha la mascherina, l'aria passa e il problema è irrisolvibile. Sì, di certo io... non si può bucarla come dice l'ascoltatore, di come c'è un'altra ascoltatrice, fai come la maschera al mare, sputaci sopra. Non credo che sia questa. Ma io ho visto alcuni fumatori soluzione. Che hanno fatto il buco per la sigaretta. Ma dai, su. No, scherzo, ma dai, non è vero, ovviamente. Su, dai, su. Allora, se uno c'è deve chi fumare, ci dice sì, c'è chi ci dice, ecco, molti segnalano a Castelfranco Emilia, giovedì scorso 5 mascherine tipo azzurro, 10 euro, ci dice Gianluca. Ci scrivono anche i prezzi al pubblico alti di mascherine disinfettanti, serve a limitarne lo spreco a vantaggio della disponibilità per la pubblica amministrazione, cioè siamo a questi livelli, chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Ci sono tanti messaggi di Fusconi, non capisco, più Fusconi meno Milan, non capisco neanche questo messaggio, vabbè, andiamo avanti così signori, fino alle 10:30. C'è Francesco da Torino. Francesco, buongiorno. Buondì Alino, buondì Lentopede. Siete grandi due volte. Primo perché siete bravissimi e due perché mi avete risolto il problema dell'appannamento della mascherina. Cioè perché tu hai quella con la lamierina da stringere. No, io ne ho una come la tua. Me la sono fatta con il tappetino del cane, seguendo le istruzioni sul web, ma stavo morendo ieri al supermercato. Il tappetino del cane. Sì, le spiegano in giro. Quei sottili, diciamo, tappetini che si appoggiano per terra, su cui si appoggia il cane, ci sono diversi usato. Tutorial. Comunque l'ho provato usato. E dopo 2 minuti al supermercato sono dovuto scappare perché non respiravo più. Comunque. Spero non usato. Comunque va bene, Francesco da Torino usato questa. Va bene, grazie. Torniamo. Francesco. Dai. Volevo solo condividere, sì, con voi una teoria, sì, che mi sembra interessante. Due sere fa Lutbach, il politologo, ci si interrogava sul grande numero di decessi in Italia rispetto ad altre nazioni. Lui diceva, sì, molto semplicemente questo grazie o a causa del vostro eccellente sistema sanitario. Lui diceva, voi avete tanti 75enni, 80enni, 85enni, sì, che sono stati comunque tenuti in vita grazie al vostro eccellente sistema sanitario, certo, alle cure, alla gratuità, e grazie o a causa di ciò queste persone sono arrivate in quelle condizioni per poi purtroppo non farcela. Lui dice questo. Con tutto rispetto, non ci voleva Lutwak, nel senso che lo dicono moltissimi medici, scienziati. Abbiamo un livello sanitario eccezionale, sì, no. Abbiamo tanti 80-85 anni che, diciamo la verità, in altri paesi, in altre situazioni non sarebbero qui. Li abbiamo tenuti in vita bene, a un livello di qualità di vita bene, solo che adesso ovviamente se prendono il virus rischiano di più, ecco. No, ma Francesco, questa è un'assoluta verità. Ma noi, caro Leonardo, ti ricordi che avevamo un collegamento con una signora in India che chiamammo per la questione inquinamento, Carmela, che ci ascolta, sì, da New Delhi, che adesso abbiamo chiamato. Gli oxygen bar, i bar ossigeno, certo, con l'ossigeno. L'abbiamo chiamata, ricordo, nuovamente, sì, perché adesso c'è 1 miliardo e più persone in India bloccate. Carmela, buongiorno da Nuova Delhi. Buongiorno a tutti. Allora, come va? State in casa intanto? Sì, siamo chiusi in casa qui dall'inizio del mese. Voi pensate, in India 1 miliardo e rotte persone, non so, 1 miliardo e 300 sì, milioni di persone, sì, chiuse. È impressionante, no? Ce la descrive. Sì, vabbè, c'è anche il fattore magari da valutare. Chi non ha per niente un'abitazione, quindi... Esatto. Quindi c'è chi, diciamo, che sta in casa, tra virgolette, quindi c'è chi vive all'aperto, quindi c'è molta gente che non può neanche stare chiusa in casa per riguardarsi da questa problematica. Ma è davvero così un problema? Cioè, si dice che in India davvero possa scoppiare un disastro enorme. Certo, vedendo quello che sta succedendo in Italia, immaginare qui una cosa del genere con il sistema sanitario che non ha paragoni, diciamo che è un sistema sanitario piuttosto precario, oppure le ottime strutture sono disponibili per pochi, quindi immaginare tanta gente con quel problema lì, diciamo che si può immaginare quello che potrebbe accadere. Ma in questo momento invece la situazione com'è? Ci sono molte persone, allora, già ammalate? No, la situazione, almeno a livello ufficiale, non so se è perché non fanno tamponi o per altre ragioni, dicono che ce ne sono in tutta l'India intorno ai 700 casi, che pochissimi morti, e quindi bisogna, secondo me, prendere questo con le pinze. Quindi poi, vista la facile diffusione che si è avuto in Italia e in Cina, immaginare qui una cosa del genere, cioè, vuol dire che in poche settimane potrebbe accadere di tutto. E allora è giusto che il primo ministro qui abbia in effetti chiuso già da domenica scorsa cioè coprifuoco assoluto e totale. Certo. Per 21 Ma voi potete giorni, uscire, perché... potete uscire per fare la spesa, vi potete muovere, ci sono delle limitazioni, qui in Italia ci sono delle regole stringenti. Sì, qui praticamente hanno dato l'avviso di una prova di domenica scorsa, e poi dopo la mezzanotte praticamente hanno dato l'avviso che veniva prolungato per altri 21 giorni, quindi chi aveva già fatto della spesa si è ritrovata, altrimenti nulla. Cioè, tipo, certo, ieri il marito ha detto ok, vado a prendere un po' di frutta fresca alla bancarella più vicina a casa, e c'erano le guardie che da lontano hanno urlato e corso. Infatti mio marito ha letteralmente preso le buste della spesa e è scappato. Certo. Quindi non è come in Italia, cioè qui vanno in giro, la polizia va in giro con i manganelli, cioè praticamente se ti beccano quando tu non devi e non puoi, cioè non devi essere fuori, ti sono manganellati, cioè non esiste. Cioè, proprio la multa, no, voglio dire, quello che noi abbiamo come battuta, il nostro ascoltatore che dice le nerbate, lì invece c'è Carmela. Noi la ringraziamo da Nuova Delhi. Aspetti che io devo aspettate che devo cogliere in diretta una lamentela. Cosa c'è? Cosa c'è, Mattia? Cosa sta succedendo? Niente, Mattia se ne va a bocca asciutta e bocca muta. È arrivato minacciosissimo, credo che ci sia un litigio in corso in questo momento in casa, ma io sono in diretta, lo posso risolvere questo litigio tra un quarto d'ora, alle 10:30. Questa è la situazione. Vabbè, Leonardo, sono messi così in India. Adesso noi ridiamo, ma insomma l'idea delle manganellate. Fa abbastanza specie sentire. Allora, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora Leonardo, noi, come ricordi, ogni tanto i nostri ascoltatori lo sanno, chiamiamo il nostro amico Daniele Belotti alla camera per cazzeggiare, di solito lui sull'Atalanta, ci prende in giro noi tifosi del Milan, ridevamo, però Daniele Belotti è onorevole della Lega di Bergamo e ieri alla camera ha preso la parola così. Vai Alpino. Ci permetta solo di ringraziare di cuore chi non si ferma mai, perché i bergamaschi non sono abituati a restare con le mani in mano. In questo momento centinaia di volontari alpini, idraulici, elettricisti, imbianchini, i ragazzi della curva nord dell'Atalanta stanno allestendo un ospedale da campo nella fiera di Bergamo. Aziende, associazioni, semplici cittadini stanno donando milioni di euro agli ospedali bergamaschi. La protezione civile dei comuni non si ferma un attimo, i sindaci e i consiglieri sono tutti in prima fila. Grazie di cuore, grazie davvero a tutti, perché noi non ci fermeremo mai. Grazie. Insomma, la commozione, e devo leggere anche una mail che ci è arrivata da Nicola. Sono un tabaccaio di Ferrara, vi ascolto tutti i giorni e vi segnalo che vedere Belotti in Parlamento che piangeva, e non sono leghista, scrive questo ascoltatore, anzi, ma mi ha veramente commosso e gli mando un abbraccio virtuale. Ol Belotti, eccoci sì, qua. Sì, ciao. Ciao, ciao, ciao. Te lo mandiamo anche noi questo abbraccio virtuale, perché sai, noi qua con te si cazzeggia sempre, si sì, scherza, certo, si ride. Ma figurati se non, uno come me non piace far casino, Però obiettivamente la situazione è molto difficile, l'abbraccio non va a me, va a tutti quelli che veramente ci stanno mettendo l'anima. La commozione nasce da quello, quando in difficoltà vedi gente che parte in quarta, che mi scrivono, ma io cosa sto a fare in casa, ditemi cosa posso fare. Cioè quella gente qui che va, che nei momenti difficili ti fa sperare che insomma non è tutto così brutto come si può far vedere nella società d'oggi. C'è ancora gente che si mette in gioco per gli altri, e quindi la commozione nasce da quello, per cui mi sono lasciato andare un attimo. Poi bisogna tirare il fiato e non mollare, perché altrimenti non è che nei momenti difficili puoi solo piangere, se no sì. Dove vai? No, certo. Beh, d'altronde cos'è? Mola mia, no? È certo, un po' il mola motto, mia, che è il motto nostro, sì. il motto di Bergamo. Però beh, i cittadini che cosa anche, possono anche, fare materialmente Brescia, in questo momento? Anche a Brescia, Cremona, sì, Brescia, ormai anche Cremona, Italia. Bergamo diciamo che è diventato un po' la città simbolo di queste catombe, un po' come Wuhan in Cina. Non è che il problema c'è solo in quelle città lì, c'è solo a Bergamo, Wuhan, sono città simbolo, però il messaggio Bergamo è il messaggio a tutti. No, giustamente però dice Manera, che cosa può fare il cittadino? Il cittadino deve rispettare le regole, cioè non deve sentirsi in colpa se sta in casa, anzi, cioè fa la cosa migliore. Fa la cosa migliore. Ora, il cittadino fa già tanto se rispetta le regole, perché altrimenti è un casino. Poi se qualcuno ha delle capacità che servono nel momento ma su richiesta, come ad esempio alla fiera di Bergamo, all'ospedale di campo, gli alpini hanno chiesto, stanno facendo un lavoro enorme, hanno chiesto ci servono degli imbianchini. hanno contattato la Confartigianato, la Confartigianato ha contattato anche, ha cercato di coinvolgere anche la curva dell'Atalanta, che in quelle occasioni qua non si fa problemi, e ne cercavano 15, ne sono arrivati centinaia. Capisci? È quello che ti fa per arrivare addirittura a dire no? fermi, basta, siamo a posto, ne abbiamo troppi. Centinaia sono andati, hanno telefonato per dire io ci sono. Questa è la cosa che ti fa dire vabbè, dai, non siamo proprio messi così male come società individualista, quelli che stanno solo davanti al computer, che se ne fregano degli altri. È una brutta vicenda, brutta storia quella che stiamo vivendo, però diciamo che servirà di esperienza, segnerà tutti, ma potremo trovare qualcosa di buono in tutta il dramma. Si dice che tutti a Bergamo conoscano persone, parenti, amici, insomma, che hanno un lutto da portare a casa. Guarda, io leggo, come tutti noi, leggiamo ogni mattina i necrologi, le decine e decine di necrologi sul giornale, che sono solo una parte, perché non tutti mettono un necrologio sul giornale, essendo a pagamento non è che tutti lo fanno. Ti dico che personalmente io mando tra i 6, 7, alcune volte duro 10 messaggi di condoglianza al giorno, perché è morto il papà o il nonno o l'amico. Insomma, stiamo parlando, insomma, ufficialmente sono 1267, questo è il dato dell'altro ieri, quello che ho comunicato, il dato ieri non lo so, 1267 morti dalla fine di febbraio a Bergamo, però quelli sono i dati ufficiali che si riferiscono solo a quelli morti per coronavirus, ma sì, quelli sì, che sono morti con il coronavirus sono molti di più, cioè stiamo parlando di una media di un 90-100 morti al giorno da quasi un mese a questa parte. E quindi vuoi che in una comunità come la nostra uno non conosca? Ci si conosca, no, ma chiaro, poi tu conosci un po' tutti. Insomma. Allora, Olbelot, facciamo così, torneremo a prenderti e prenderci in giro reciprocamente, sì. E quindi quello sarà, guarda, un bel giorno, vorrà dire assolutamente, che... guarda, nessuno a Bergamo non si molla perché nessuno vuol perdersi la finale di Champions League dell'Atalanta, quindi torniamo un po' sui nostri temi un attimo e poi ributtiamoci a lavorare per la nostra gente, dai. Va bene, grande. Un abbraccio, Belot. Ciao, dirò di più. Vi prendo anche un biglietto a tutti e due di finale di Champions. Va bene, ci saremo. Okay. Adesso, grazie, Belot. Leonardo, scollegati un attimo perché zoppichi. Sento già, questo è l'orario in cui la tua app fa le bizze. Scollegati, ricollegati anche perché vogliamo concludere con il nostro. Sei già tornato. Con il nostro Federico Taddia. Buongiorno. Senti, si può suonare anche così. Federico Taddia. Senti, la doppia anima Federico di questo Taddia! Programma. Taddia. Ok, Fede, vabbè, dai. Momento della ricreazione. Allora, oggi pensavo di accogliere la neve, anche che in alcune zone d'Italia è caduta, anche se un po' fuori stagione, giocando a curling in casa. Avete presente il curling, no? Lo certo, stone, quello sport assurdo, sì. Le bocce sul ghiaccio, dai, diciamo. Bravo, così. Esatto. Allora, bisogna ovviamente segnare il tracciato in casa, ma bastano un paio di metri, insomma, anche in cucina, in sala. Uno scotch per fare una sorta di rettangolo di questa pista, poi serve la cosiddetta casa, che è il cerchio dove appunto devi far arrivare il tuo stone, e in questo caso o mettiamo dello scotch. Si può mettere dello scotch oppure si mette anche un oggetto a cui bisogna avvicinarsi se non si vuole mettere nulla nel pavimento, Poi serve lo stone, non possiamo giocare con la pentola a pressione perché insomma come oggetto andrebbe anche bene ma non scivola, quindi pensavo che si possano utilizzare delle vecchie macchinine che ci sono in tutte le case, c'è sempre la macchinina, ma anche quella di Lego, è proprio un retaggio di quando i figli erano piccoli piccoli. A quel punto il gioco è semplicissimo perché lanciando la macchinina sul pavimento devi avvicinarti il più possibile al tuo bersaglio al centro, e vince chi arriva più vicino. Allora, Federico, purtroppo è così, insomma, è oggi, anche oggi non c'è tempo e quindi teniamoci questo gioco, il curling. Dai, domani cerchiamo di dirne due per chiudere la settimana che c'è il weekend. Il weekend, se fossi in Federico mi offenderei perché lo tagli sempre. Federico, fai proteste contro Alessandro Milan. Io mi offendo mi offendo con anche perché dobbiamo andare allo speciale Nicoletta Carbone con il messaggio che Manera: hai avuto il tempo un'ora e mezza per pensarci, affidi all'umanità aprendo la finestra di Piazzale Udine. Vai Leonardo, di qualcosa e con questo chiudiamo. Vai, dai, ancora 5 anni e ne siamo fuori.